Allora, questa sera prepariamo un lavoro che come archivio abbiamo fatto in realtà nel corso dell'anno scorso e nei primi mesi di quest'anno. Infatti abbiamo messo il lavoro, la documentazione sul sito già qualche mese fa per dare la possibilità di leggerlo, di guardarlo e avere più cognizione di causa per discutere. Chiarisco subito perché questo lavoro, che in realtà c'è portavamo dietro, lo trascinavamo da un po' di tempo, perché l'archivio Calusca, anche in concreto, a noi di iniziative sugli anni 70, sul carcere, sulla storia dei movimenti in Italia, ne facciamo parecchie. E in queste iniziative ci è capitato più volte di affrontare, dentro i contesti degli anni 70, il problema della dissociazione e del pentitismo. Ma riscontravamo almeno due comportamenti. Il primo, diciamo nei compagni più giovani, quello di non avere chiaro, quello di riscontrare che non avevano gli elementi chiari di che cosa era successo, come si era sviluppato quel fenomeno, i due fenomeni insieme di quel periodo. E viceversa, nei compagni un po' più vecchi che hanno attraversato quella storia, un atteggiamento che si può diciamo, riassumere in questo modo: non addentriamoci e non prendiamoci guai. E quindi questi due comportamenti ci facevano pensare a un elemento specifico dell'archivio, che è quello di fare memoria sostanzialmente, che non potevamo accettare una sorta di tabù sulla storia del movimento e dei movimenti d'Italia. Quindi a un certo punto abbiamo deciso di metterci a lavorare e produrre questo tipo di lavoro. È da questa esigenza che è nata l'idea di prepararlo. Il metodo che abbiamo usato per fare questo lavoro: abbiamo evitato di fare un lavoro, diciamo, a ritroso, di dare un giudizio oggi su quei fatti e quindi un giudizio a posteriori, leggendo dall'oggi i fatti di ieri. Abbiamo invece preferito mettere su, corredare dei documenti, dei soggetti che allora avevano partecipato a quella stagione, e quindi di proporre al lettore, a chi si interessa, in prima battuta un lavoro documentale. Questo lavoro documentale abbiamo dato, come dire, un arco temporale, anzi due archi temporali. Il primo, che va sostanzialmente dalle dichiarazioni di Fioroni, no, primo pentito. Diciamo che si può, non perché non c'erano stati prima, ma prima erano altre questioni da fratello Mitra, eccetera, eccetera. Ma diciamo di questa stagione, di quella stagione, diciamo dal 79 all'87, la legge sulla dissociazione è stato il primo arco temporale che abbiamo dato, e il secondo arco temporale dall'87 ai giorni d'oggi. È chiaro che il secondo arco temporale, e di cui vi parlerò dopo, anzi in particolar modo vi parlerà Tommaso, riguardano documenti che vanno al di là dell'oggetto in discussione. Sono documenti del 2010, 2008, che diciamo si riferiscono, sono documenti di 20 anni dopo. Però, diciamo, come contesto, come posizioni, come comprendere le linee così come si sono sviluppate, servono abbastanza a dare l'idea. Che cosa sulla documentazione abbiamo preferito fare? È chiaro che vogliamo chiarire subito una cosa, cioè i materiali che noi abbiamo messi non sono né esclusivi né esaustivi, esclusivi nel senso che non sono gli unici materiali che si possono mettere, è chiaro che altre persone ne possono inserire altri, né esaustivi nel senso che non sono solo quelli, ce ne sono altri, ma abbiamo tentato di dare questo criterio, cioè un criterio temporale. È quasi un criterio di carteggio. Se voi guardate i documenti in evidenza, esistono documenti letti da imputati nei processi, l'interlocutore era il giudice o l'interlocutore era in movimento, quasi una sorta di carteggio tra i soggetti esistenti: Stato, imputato, movimenti all'esterno. Se vi leggete i documenti, seguono questa idea. No, troverete la legge Cossiga del 6 febbraio, l'abbiamo inserita per un elemento specifico, la modifica della chiamata di correo che fa la legge Cossiga, che tanto peso avrà successivamente nei processi. No, troverete la lettera di Alfredo Bonavita delle Brigate Rosse, la risposta dei suoi compagni delle Brigate Rosse sul, diciamo, la lettera di, tra virgolette, di pentimento di Bonavita. La legge sui pentiti, la 304 dell'82, e tutti i documenti successivamente che si possono, da dove nasce prima la desistenza, poi le aree omogenee, la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia sulla suddivisione interna alle carceri, e quindi, come dire, la sistemazione delle carceri speciali, le cosiddette aree omogenee, le aree di desistenza che furono o dette aree del silenzio per un altro periodo che si costituirono, eccetera, fino ad arrivare alla legge Gozzini e la legge sulla dissociazione dell'87. Abbiamo creato questo diciamo asse cronologico. In realtà, dopo l'87, la legge sulla dissociazione, ci sono dei documenti che noi abbiamo inserito e riguardano lo stesso oggetto, ma di posizioni che sono, almeno dal punto di vista giuridico, fuori da quell'arco temporale. Sono la posizione di Curcio e gli altri sulla battaglia di libertà, la posizione del gruppo Gallinari. Abbiamo inserito anche una lettera di Nicola De Maria sulla soluzione politica, contro la soluzione politica, e un'ultima di Franco Galloni del 2010. Non c'entrano con l'arco temporale, ma si esprimono su quell'oggetto. Vorrei dire alcune cose per, come dire, come chiavi di lettura. Pur avendo usato il criterio della documentazione, è difficile su queste tematiche non esprimere un giudizio o dare delle chiavi di lettura della documentazione in generale. Ne do alcune, poi altri ne possono inserire altre. La prima, si capisce chiaro da tutto il lavoro fatto che i due fenomeni, pentitismo e dissociazione, sono due fenomeni distinti. Due fenomeni che attengono, sono regolati da due leggi diverse, ma attengono anche a un contesto storico dentro e fuori le carceri diverse. Cioè, se discutiamo del periodo 79-82 troviamo delle caratteristiche, se discutiamo del periodo 82-87 cambiano le caratteristiche, e lo cambiano soprattutto rispetto al corpo sociale di riferimento. Parliamo delle lotte sociali, delle lotte operaie, delle lotte interno alle fabbriche e fuori dalle fabbriche. Quindi non vanno confusi come due elementi, diciamo così, unitari, perché non sono unitari né dal punto di vista dei soggetti. Se un'unitarietà va trovata dal punto di vista dello Stato, perché lo Stato in realtà il suo mestiere lo fa bene. Se uno si legge le due leggi, capisce benissimo che dal punto di vista dello Stato le due leggi stanno dentro l'idea di rompere quel movimento, diciamo così, di conflitto duro che c'era stato negli anni 70 e negli anni 80, di rompere le sue forme sociali violente, le sue forme anche armate. Va bene. E con una differenza notevole, che potrei riassumere in questo modo: la legge sui pentiti, per spiegarlo a un ragazzo che era venuto in archivio mentre facevamo questo lavoro, avevo usato un aneddoto, cioè la legge dei pentiti è uguale a quelli che ci arrivano sui nostri cellulari, vieni in Vodafone e ti facciamo lo sconto. La legge dei pentiti più o meno si può raggruppare in questo modo: porta un tuo amico in galera e ti diamo gli sconti. Era questo il senso della chiamata di correre, era questa: tu chiamavi una persona imputata con te e gran parte del processo era andata a farsi friggere. La dissociazione cambia, perché in realtà il corpo sociale militante, quando nell'87 c'è la legge sulla dissociazione, è quasi tutto detenuto. Che cosa chiede la legge in realtà. Chiede, a nostro avviso, se si legge bene, una sorta di scambio politico a quel punto. Chiede che quell'immaginario, no? Quella soluzione che si era trovata al conflitto sociale venga rinnegata, va bene? Non chiede più, chiede di ammettere le proprie responsabilità, non più di questo. Mi dispiace che non ci sia Gabriele Fuga, che ci ha detto che non poteva venire, perché lui in un'altra occasione aveva fatto un esempio splendido sulla dissociazione, faceva l'esempio del mosaico, diceva: mi sono trovato alcuni processi dove uno in realtà non accusava nessuno e ammetteva le proprie responsabilità, no? Ma se tu sei imputato in 5 e 4 ammettono le proprie responsabilità, è come avere un mosaico dove la tessera mancante è facile collocarla, no? Usava questo esempio per i processi della dissociazione, dice, lì ognuno diceva le proprie responsabilità, quello che non lo ammetteva non c'era bisogno di fare altro, perché era come una tessera mancante del mosaico dove il processo aveva sostanzialmente ricostruito, quindi condizionava in ogni modo l'assetto generale dei soggetti in corso. Un altro elemento di lettura che volevamo dare è questo: molti pensano che la legge ha favorito il pentitismo e la dissociazione, in realtà le leggi avvengono quando i fenomeni sono già ampiamente determinati. La legge sui pentiti dell'82, tutti i grandi pentiti, e su questo troverete una scheda da Barbone, Peci e compagnia cantati, in realtà hanno già tutti parlato, è chiaro, così come la legge dell'87, il fenomeno della dissociazione era già ampiamente circoscritto, cioè non sono le leggi che avvengono prima del fenomeno, ma la legge descrive il fenomeno, non fa altro che sancire ciò che era avvenuto precedentemente. Un'altra chiave di lettura che vi do, che è questo, leggendo, è quella del beneficio e del maleficio. È chiaro che la legge sulla dissociazione, così come la legge premiale precedente Gozzini, era basata sulla premialità, sui benefici, ma questo costava malefici per altri, no? Infatti la circolare dell'83 suddivide le carceri in speciali, nei braccetti speciali, nelle aree omogenee e compagnia cantante, come dire, una buona carcerazione per alcuni corrispondeva a una cattiva carcerazione per altri, a una più dura carcerazione per altri. Non è che non ci fossero, non ci sia questa corrispondenza. Quello che ci è stato difficile in questo lavoro è ridare al lettore gli elementi di contesto. Questo è difficile farlo, cioè come spiegare il contesto allora che c'era sia fuori che dentro le carceri. Questo è difficile farlo, lo si capisce un po' dalla documentazione, lo si capisce dagli interventi che i soggetti fanno nelle varie cose, ma questo è difficile spiegarlo, perché sicuramente c'è un elemento in cui va messo in correlazione, ed è cioè quella che va sotto il nome di sconfitta, tra virgolette, cioè rimanda il problema della dissociazione a come quel movimento ha affrontato quella che viene definita la sconfitta, o comunque i mutamenti avvenuti sia sui piani della ristrutturazione capitalistica sia sul piano della repressione politica. E questo lo si capisce principalmente se vi guardate la documentazione, diciamo, come linea di demarcazione dopo le lotte per intenderci dopo il licenziamento dei 61 alla Fiat. Si capisce bene che è la discriminante temporale in cui cambiano i giudizi di contesto nei soggetti che parlano. E questo però, devo dire, è vero che la documentazione non riesce a darlo, come non riesce a dare la situazione nelle carceri. Io me la ricordo bene, non era una situazione facile, cioè inizia un processo di frantumazione del corpo sociale nelle carceri, di desolidizzazione, no? Quello che aveva stabilito, che aveva retto quella comunità, eccetera, incomincia a frantumarsi, e questo ha inciso molto anche sui comportamenti individuali delle persone. Così come cambiano, e spero che Pippo ci dia qualche indicazione a questo proposito, i processi politici. Se uno si guarda la documentazione sui processi politici, trova dal 76 all'80 quello che viene definito il processo guerriglia, cioè gli imputati che revocano gli avvocati tentano di ribaltare, no, la situazione in aula, e invece nell'82-87 con dei processi sostanzialmente in cui gli imputati sono ammittenti delle proprie responsabilità. Muta, no, la situazione del processo politico, con difficoltà e caratteristiche diverse anche della difesa. Va bene. Troverete anche, e io mi fermo per il momento passando la palla a Tommaso, troverete anche un corredo di documenti abbastanza ampio che trascende l'arco temporale che prima ho descritto. L'abbiamo messo proprio perché le difficoltà di contesto che non si riusciva a dare poteva, quindi ci sono documenti sulle lotte sociali, su statistiche allora, sulla disoccupazione, eccetera, cioè su elementi che possono costituire quella cornice dentro cui quelle lotte o quelle sconfitte, quei comportamenti sono avvenuti. E di questo vi parlerà Tommaso sulla strutturazione dei documenti. Ultima questione con cui chiudo, su questo ci abbiamo avuto discussioni con molti. Noi non pensiamo di far discendere dal nostro giudizio, che mi pare chiaro, che diamo dal punto di vista politico, secco sui due fenomeni del pentito e della dissociazione, anche perché come archivio abbiamo a che fare con la memoria, con la ricostruzione dei fatti e con la ricostruzione della storia. Se una cosa ci accorgiamo è che quei fenomeni, la prima cosa che hanno fatto è che hanno creato una cesura che è impossibile ricostruire o riconoscere quel soggetto. La prima cosa che hanno fatto è impedire di ricostruire una memoria almeno collettiva di quei fatti, e questo per chi fa lavoro di archivio lo individua subito. Una seconda questione è che noi, pur dando questo giudizio negativo, non abbiamo mai pensato di far nascere delle blacklist da questo discorso. Però teniamo a precisare che nella nostra pratica politica noi non ricostruiamo storie con soggetti del genere che hanno partecipato a questi fenomeni. Io mi fermo qui e poi successivamente riprendiamo alcuni punti che nella discussione possono essere approfonditi. Ora volevo provare a fare un esempio breve, spero di cavarmela molto in fretta, per capire che cosa uno può fare, cioè seguire un possibile percorso di questa cosa. Vediamo se riesco. E qua dico, leggerò delle cose che non mi piacciono, però le leggo. Allora, questo qua è un pezzo dell'85, Spazzali Sergio, vabbè, in cui lui non so perché lo scrive, per dove, non so se è uscito da qualche parte, comunque fa una classificazione delle lotte delle carceri. Lui dice analisi delle fasi dal 70 all'85. Ve lo riassumo velocemente. Lui dice in una fase che va 70, appunto 70-85, nella prima fase 70-75 ci sono delle rivolte sostanzialmente di detenuti comuni che hanno come obiettivo quello del miglioramento della condizione carceraria oppure l'evasione, va bene, queste due cose. Nella fase 75-80 entrano invece in rapporto con questi detenuti comuni dei detenuti politici, ed è, lui dice, una cosa inusuale il grado di contiguità che si produce tra il detenuto politico e il detenuto comune, forse anche dovuto ai rapporti con il proletariato extralegale che le organizzazioni avevano prima, avevano all'esterno, e questa cosa in rapporto con tra l'interno e l'esterno produce una serie di rivolte e di, per esempio, processi che escono completamente dall'obiettivo, lasciano completamente a margine l'obiettivo di dei miglioramenti, ma si pongono, e quello che diceva, citava Gino prima, il processo di rottura, si pongono, come dire, nella totale incompatibilità col carcere, e quindi sono delle rivolte oppure delle cose, come dire, dei processi, delle gestioni di processi che non hanno niente da spartire con la controparte, diciamo, col potere, niente. E che quindi, diciamo, sono molto diverse da quelle della fase precedente. Una terza fase dopo l'80, nella temporizzazione, io sono abbastanza d'accordo, più che l'82, la parte grossa finisce con nell'80, voi vedete ce n'è una miriade di rivolte carcerarie, è il periodo del sequestro d'Urso, diciamo, in qualche modo, che finisce con la rivolta di Trani. Dopodiché invece rientra, cioè in qualche modo la componente politica si perde un po', c'è un momento di grossa crisi da parte, io dico questo, delle organizzazioni e non solo, come dire, lo scontro è molto forte e allora in questo senso la lotta carceraria torna ad essere una lotta rivendicativa. L'esempio che lui fa è quello di Milano, che pure si conclude, di San Vittore, che pure si conclude con un massacro, un violento pestaggio a San Vittore, che però già era fuori da questa, dalla fase precedente. Partiamo da questa temporizzazione qua. Ho usato il carcere come esempio per costruire una scaletta temporale. Va bene. Allora, velocissimo, processo di Pescara 73, che è il primo documento che noi riportiamo, quindi molto prima di tutto, è un processo sostanzialmente di detenuti comuni che però fanno un lavoro molto interessante, inusitato e particolare, cioè in qualche modo anticipano il processo di rottura dicendo a noi non ci interessa questa corte, non ci riescono a tenere insieme questo loro gruppo e si pongono in diretto contrasto con quello che è l'alterità del tribunale che li sta giudicando. Vi leggo un pezzetto piccolo per dare un'idea, in modo che possa forse poi essere chiaro delle parti lette dopo. Vado veloce, posso dire, leggo solo l'ultimo. Le sottolineature sono sempre mie, quindi non è... comunque. Loro dicono: vogliamo inoltre rendere conto che ormai sappiamo che non ci aspetterà certo un premio per essere stati sempre ideologicamente solidali con le giuste proteste e saremo probabilmente condannati, ma abbiamo scoperto che la nostra unità ci dà forza di combattere contro la giustizia borghese e chiediamo e chiederemo sempre ciò che ci è stato sempre negato e nel nostro caso specifico l'abolizione della recidiva, l'abolizione della carcerazione preventiva, l'abolizione della chiamata di correo, l'abolizione degli reati d'opinione. Chiediamo inoltre la riforma carceraria, la riforma del codice, diritto ai rapporti eterosessuali, amnistia e indulto per tutti, facoltà di organizzazione e diritto di lavoro. Quindi siamo nella scalettatura di Sergio, ancora nel primo pezzo, perché le rivendicazioni sono del tipo, come rivedete, però, come dire, la relazione con l'interlocutore tribunale è particolare, diciamo, e avviene, il fatto poi avrà, come dire, degli effetti per loro positivi, perché effettivamente fanno saltare tutto lì dentro, salta tutta la cosa, è molto ben descritto sulla zecca del garbuglio che c'è qua, per cui se uno vuole poi si incuriosisce può farlo. Dopodiché, velocissimo proprio, inizia a parlare Fioroni, la legge Cossiga, Peci, la Fiat, l'esito del lungo periodo di occupazione della Fiat e quindi la questione del mondo del lavoro incombe. Noi non possiamo dimenticare che queste cose non sarebbero mai avvenute se non ci fosse stato un contesto produttivo in cui avevano genesi e una relazione strettissima. Ora le organizzazioni hanno dato poi, come dire, dei giudizi di soggettivismo alla crisi politica dell'82, ma noi siamo, tendiamo a identificare gli eventi e le cose sulla base delle scelte individuali, mentre l'ambientazione, il contesto era importantissimo, lo è sempre, ma lo era. Diciamo, là, quindi succedono delle cose grosse su questo. succedono nelle fabbriche, nelle città, nei luoghi del lavoro, insomma. Va bene, procedo. La rivolta del carcere di Trani, l'ho detto. A quel punto ci sono due pezzi di Negri che salto perché, vabbè, sono... E poi la lettera di Alfredo Bonavita, 81, siamo lì, diciamo, la parola dissociazione incomincia a venire fuori in quel periodo lì. Vabbè, diciamo, sono un po' a caldo, può darsi che uno si... E poi c'è l'81, anche la lettera di Alfredo Bonavita, che dice, scusate, ho sbagliato. Dunque, la lettera di Alfredo Bonavita arriva all'Espresso, direi che arriva, è stata pubblicata. Bonavita ne ha scritte due, una credo che l'ha scritta interna e una l'ha scritta fuori. Questa volta è stata all'Espresso. Anche sulla scelta dell'interlocutore è interessante, perché mai... Come dire, uno aveva mandato una comunicazione. Io ho un problema di relazione col mio gruppo, oppure anche di disaccordo. È successo prima, no? Non si può dire di no. Ha scritto al gruppo in qualche modo nei canali. Questo, diciamo, è diverso, come dire, anche l'uso che ne viene fatta. Va bene, andiamo all'82, documento del 51, area omogenea di Rebibbia. Area omogenea di Rebibbia significa, per chi non ha mente, un pezzo di galera in cui erano, ne 82 siamo, la legge di dissociazione non c'è ancora, però in cui erano raccolti coloro che di queste cose parlavano, stavano in qualche modo pensando di chiamarsi fuori. Va detto di nuovo che secondo me questa questione con l'autonomia va messa in conto, va un pochino ragionata meglio. Negri, dopo Trani, aveva ricevuto un mandato di cattura per il sequestro d'Urso, cioè, come dire, la pressione era forte a tutti i livelli lì capito? E va bene, il documento del 51 che pone questo problema, va bene, pone questo problema dell'uscita, in qualche modo sposta l'asse e dice, non so cosa vi posso vedere, la fine, dice siamo numerosi, è nostro interesse quindi opporci al militarismo istituzionale e a quello combattentistico, da una parte e dall'altra, non siamo né di qua né di là, riprendendo una dialettica di lotta, di vertenza per arrivare all'apertura di una trattativa. La maggioranza dei prigionieri politici può, ponendosi come interlocutore attivo, contribuire a innovare e modernizzare il diritto, lottando per un superamento della legislazione speciale. Solo così potranno darsi le condizioni sociali e istituzionali tali da consentire anche un atto di depenalizzazione straordinario che trae oggi la sua forza dalla capacità critica di revisione dei propri percorsi. Bene, quindi diciamo il genere, il soggetto, il genere, l'ambientazione, come dire, volete fare un parallelo rispetto a Pescara, non si può fare, è completamente un altro, capito? Qua il problema è quello di dire, devo mettere a posto delle questioni che mi riguardano, che sono qua e che, no, va bene, è una cosa, naturalmente è un problema che noi dobbiamo mettere sul piatto perché era dura, non è che era una passeggiata, capito? Quindi questa roba qua non è che uno dice, però è chiaro che l'asse è fortemente spostato. 82, nell'83 lo speciale di Alessandria è un carcere speciale sui generis, nel senso che è il carcere dei pentiti e dei dissociati, fanno una rivista, hanno molta socialità, siamo nell'83, la legge della dissociazione è dell'87 e allora loro scrivono, vanno in vignette, vedete questa qua è buffa, non, di là. E scrivono a Nicolò Amato, che è il direttore della Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena, va bene, scrivono da là, e allora loro dicono questo: il carcere è rimasto uno degli ultimi appigli a cui si aggrappa disperatamente chi ancora vuole esaltare la faccia feroce dello Stato, va bene? Purtroppo è ancora uno dei pochi appigli reali, cioè, diciamo così, è come dire, se no sarebbe... Le persone che in vari modi conoscono le condizioni medie dei detenuti sono diventati l'area di reclutamento o quantomeno di simpatia e d'appoggio politico di quel che resta delle organizzazioni combattenti. Quindi bisognerebbe cercare l'applicazione estesa di norme che possano ridurre al minimo la segregazione per i dissociati. Va bene, salto in fondo e dice, noi crediamo che l'unico vero reinserimento può avvenire solo attraverso misure alternative alla detenzione, per cui riteniamo che si debba aprire la discussione sulla conversione della pena detentiva in servizi civili, di assistenza e così via, ovviamente per chi dia prova effettiva di abbandono della violenza e di cessata pericolosità sociale. Questo è detto da dentro, non è detto da fuori. Questa roba qua non l'ha detta Caselli, capito? Questo noi lo dobbiamo mettere nel conto. Anche qua, diciamo, il salto è grosso. 84, facciamo un passo avanti, poi torno indietro. Gli imputati del processo prima linea scrivono un'altra lettera a Nicolò Amato, che doveva avere una grossa corrispondenza in corso, quello di là. E allora vi leggo solo la fine perché andando troppo lungo. Loro dico, la proposta è sempre quella, c'è l'assunzione di responsabilità collettive individuali in ordine ai fatti ascritti, la mitanza, quello che diceva, che poi sarà inserita nella legge, ma dopo. E dicono, la proposta di cui parliamo non solo va nel senso del superamento della nostra passata esperienza nella forma della recessione della logica della lotta armata, ma esprime anche la volontà di assumere nel proprio orizzonte politico e dentro la carcere una prassi non antagonista e per la quale il confronto critico anche conflittuale avvenga in termini di libera espressione. E chiuso là, no? Questo sono... capito. Ora che cosa succede? Questa roba qua diventa un oggetto di come dire, interessantissimo, capito? Tutto questo diventa un oggetto interessantissimo. Naturalmente abbiamo detto la tenaglia doppio corso, cioè c'è tutto un contorno, le organizzazioni non sanno più cosa fare, la situazione del lavoro, la Chiesa entra prepotentemente in campo su questo. E allora abbiamo in questa scaletta qua, questi sono sempre dei pezzi che ci sono, nel 77 l'istituzione delle carceri speciali eravamo prima, nell'82 vengono rinnovate e come dire ristrette le condizioni, nell'83 ad aprile vengono rinnovati e invece ad agosto vengono parzialmente chiuse, quelle che restano hanno delle restrizioni più alte e viene data la formalizzazione alle aree omogenee che già c'erano prima in qualche modo, però viene effettivamente scritto ed è ben spiegato come la, come dire, si dice la, perché questi ragazzi hanno bisogno di un posto dove trovarsi, hanno dimostrato la volontà eccetera eccetera di queste cose. Vediamo l'altro pezzo allora, no? Cioè, questo è quello che abbiamo visto che viene da una parte. D'altra parte l'ADN Cronos per esempio organizza questo convegno nell'83 dissociazione dal terrorismo, quali strumenti, cioè si pongono il problema, ma allora come vediamo a gestire queste viaduci nel miglior modo possibile. Allora lui dice, Caselli questo, però nell'83, quindi viene dopo le cose che ho letto, tranne l'ultimo, quello di PL, coloro che affrontano il problema della dissociazione con una prospettiva di contiguità con l'eversione considerano la dissociazione molto più pericolosa del pentimento. Il pentito, dicono, provoca un danno materiale ed umano elevato, ma circoscritto nel tempo. Il dissociato invece provoca un danno sociale e politico esteso a tutta la composizione di classe e perciò prolungato nel tempo. A parte ogni altra considerazione, è evidente, anche attraverso la preoccupazione che le parole appena citate tradiscono, l'essenziale importanza che il fenomeno della dissociazione ha e può ancor più avere nella lotta contro il terrorismo. Caselli. E se leggete gli atti, anche questo documento c'è, tutto, diciamo, il libro, e si vede bene come funziona la faccenda. Va bene, arriviamo quindi all'87, ancora là, anche su questo io devo dire, mi è capitato a volte di discutere per io non amo l'idea del pensiero monolitico in qualche modo, quindi ho sempre, e quello che succede in questo periodo e in parte è documentato anche da altri pezzi che ci sono, c'è discussione dall'altra parte su questa cosa qui, non è che va proprio tutto liscio, cioè non è che per esempio la legge sui pentiti inizialmente in alcuni processi scandalosamente non viene applicata da alcuni giudici che sono contrari, perché loro dicono questa cosa qua nella legge non è... La dissociazione è peggio ancora perché uno lì non ha nulla, cioè il giudice dice che cazzo come giustifico questo beneficio. Vi faccio sentire, se ce la facciamo, sono 3 minuti, questo è l'intervento di Silvio Coco, che è un senatore, a un convegno, siccome... Non nel Coco, no, non nel Coco. Ad un convegno a Courmayeur, viene, siccome lui faceva parte della commissione che stava studiando questa legge, c'è Pisapia che dirige questo convegno, gli dice: ma ci racconti un po' che cosa state facendo? 3 minuti. vediamo se Nicola se va. Per quale devo particolarmente riferire? Senti. Nelle carceri, soprattutto, si sono create queste che si chiamano aree omogenee, non so perché si chiamino aree omogenee, e indicano alcuni gruppi di carcerati, quasi tutti condannati o imputati per delitti a scopo di terrorismo o di eversione, i quali hanno rinunciato, hanno rifiutato l'ideologia della violenza e della eversione armata contro lo Stato. E anche loro, come sempre avviene, chiedono dei benefici. Io devo confessare, qui i colleghi, soprattutto il collega Ricci probabilmente lo ricorderà, che quando per la prima volta venne presentato questo disegno di legge per concedere benefici, come vi dirò fra poco, graduati a questi detenuti delle aree omogenee, per prima cosa ho espresso, non dico subito un giudizio negativo, ma certo molte perplessità. Sia perché ritenevo che queste persone, insomma, tutto sommato, non volevano stare in carcere, ma nessuno che ci sta vuole stare in carcere, e credevano di uscirne e chiedevano di avere benefici perché, avendo avuto la loro attività, le loro iniziative, le loro azioni contro lo Stato, un risultato negativo, ora se ne erano pentiti perché il risultato era diverso e molto più pesante per loro di quello che avevano immaginato. E ho pure detto che dubitavo dell'opportunità e della correttezza normativa di un testo che collegava questi benefici a un fatto che mi sembrava preminentemente intellettuale o, diciamo, politico, comunque non rilevante dal punto di vista dell'azione pratica e dei comportamenti pratici, qual è il rifiuto della ideologia della lotta armata. Però in seguito al dibattito, anche e soprattutto per quello che ci ha riferito il Ministro della Giustizia, abbiamo un po' tutti, e anch'io lo devo confessare, visto che siamo qui in tema di pentimento, ho un po' cambiato opinione, perché questi uomini delle aree omogenee non soltanto hanno un atteggiamento intellettuale di rifiuto della ideologia della lotta armata, il che è pure importante per la preminenza dello Stato e della legalità democratica, ma nelle carceri soprattutto si sono fattivamente adoperati contro quegli altri che si chiamano irriducibili e che continuano la loro attività di reclutamento, la loro attività di suggestione, la loro attività di collegamento con gli altri che sono fuori. Quindi non si ha soltanto, o non si ha preminentemente un fatto intellettuale o culturale, ma si ha anche un comportamento che può essere e deve essere rilevante ai fini penali. Ecco, quindi lui dice sostanzialmente va bene, non mi piace giuridicamente, ma va bene perché fanno un buon lavoro di... Questa roba qua va messa, cioè è in relazione diretta con i testi che abbiamo visto. Ripeto, facendo salvo che la situazione era complicatissima ed era molto dura. Diciamo così che su questa roba qua, cioè contro quelli che sono stati i momenti o i contesti più radicali di quegli anni, è stato schierato di tutto. Cioè dalla parte, come dire, direttamente militare, la Chiesa, l'ho detto, i partiti, la sinistra istituzionale, quella meno istituzionale, come dire, è stata un'operazione furibonda nel confronto, e quindi diciamo qua siamo. Financo, questo lo posso dire, l'88, forse non lo dico, vabbè, per dire perché finiamo, cioè nell'88 c'è, cioè, quello che tu l'hai detto già forse, no? La parte di Gallinari, cioè sono due documenti, per dire, nell'88, 87 Gallinari fa un documento dopo Curcio e poi Gallinari ottobre, mi sembra, nell'88 prima aveva fatto un documento come dire ancora vecchio stile, per dire, 88 dice bon basta. Naturalmente che cosa succede anche là bisognerebbe vedere, ora in questo caso uno non è che può troppo personalizzare, però lì nell'88 c'è Ruffilli, Va bene, loro avevano l'imputazione continua, cioè nel senso che allora lui infatti nella dichiarazione loro dicono, lui loro perché non è firma individuale, dice noi ci, oramai i compagni delle BR sono tutti in prigione in questo momento e noi non vogliamo più responsabilità su dei fatti altri che possono avvenire, che venga fatto, ora se volete lo vediamo. Cioè anche questo c'è, perché sennò rischia che cumulavi a vita in qualche modo, però succede. Naturalmente, come ho detto, non è che la storia finisce lì, né che era finita prima. Noi abbiamo voluto, in parte per quanto abbiamo potuto testimoniare, delle posizioni contrarie da parte delle organizzazioni, perché come dire, dei singoli è poco. Qualche documento c'è, non sono tanti, e ce ne sarebbero anche successivi, però lì è un problema diverso. Può darsi che nei materiali che ha messo a disposizione la Paola Staccioli, che sono però sono effettivamente i materiali delle organizzazioni, si possiate trovare delle prese di posizione anche successive a questo fatto. Se avete la pazienza, ancora 4 minuti per i nostalgici, insomma il posto è questo, c'è un pezzetto di Primo. Allora no, lo dico perché qua abbiamo, faccio un'altra chiosetta, i materiali abbiamo detto arrivano fino all'88, poi c'è un pezzo dopo, il pezzo dopo riguarda alcuni interventi che sono contrari a posteriori, però di detenuti che rifiutano la logica del pentimento, associazione, del patteggiamento e mantengono in qualche modo i valori, come dire, dello scontro che avevano in qualche modo costituito la loro attività all'esterno, diciamo, e che non possono che essere messi dopo, perché li hanno fatti dopo, diciamo, quindi sono messi, e ce n'è un paio, Galloni ha detto, e poi c'è una, 3 o 4 estratti dal convegno di Zurigo del 77, 97, scusate, è sbagliato questo, scritto 97, e li abbiamo messi 97. Grazie, 97. 97, no, ho sbagliato a scrivere qua. Sì. Le abbiamo messi perché ci sembravano interessanti testimonianze. So che il convegno di Zurigo è discusso, è un evento come tutti gli eventi alla sua discussione. Comunque questi li abbiamo ritenuti delle interessanti testimonianze a posteriori che potevano dare un'idea di quello che era, come dire, il clima di allora. C'è una, vabbè, insomma, casomai. E questo è un piccolo invece intervento di Primo che spiega il problema ai tedeschi, agli svizzeri, diciamo. Sì, ma lui lo spiega, quindi. Io credo che tutti sappiano cos'è l'associazione pentitismo. Se puoi alzare un pochino. Nel caso dei prigionieri politici e dei processi politici. Però rapidamente vorrei ricordare che c'è una formidabile falsificazione linguistica in Italia nelle parole e nella terminologia. Quello che viene chiamato pentito dalla giustizia italiana e anche dalla stampa borghese, è in realtà quello che storicamente è sempre stato il delatore, cioè la spia, il delatore, il traditore, che va dal magistrato, denuncia i compagni e scambia la propria libertà con la prigionia degli altri. E quindi sarebbe più corretto chiamarlo, come sempre è stato nel linguaggio schifoso della polizia, delatore, confidente, informatore, traditore. No. Pentito è una parola nobile della cultura cattolica. Il pentimento si fa con se stesso, con Dio. Credo che per i protestanti sia ancora più importante, perché non hanno come noi cattolici la confessione, che se facciamo un peccato dicono 3 Padre Nostro e siamo assolti, invece i protestanti sono pregati che rispondono direttamente a Dio e quindi sono messi male, insomma, su questo problema sono un po' più preoccupanti. E invece il dissociato E il dissociato non è un delatore, è una persona che è un ex compagno che va dal magistrato e fa un'autocritica, dice: io ho fatto tutte queste cose ma ho sbagliato profondamente. Quindi lui è il vero pentito, culturalmente, religiosamente e anche cattolicamente, si pente di quello che ha fatto e va dal papà a Stato e gli dice: io ho sbagliato a fare questo e quindi chiedo di essere perdonato, e invece di prendere 10 anni ne prenderò 5, perché ti dimostro che da questo momento in avanti sarò un cittadino esemplare e lavorerò, sarò contro la violenza, sarò contro e apprezzerò lo Stato democratico. Quindi è un pentito, lui è, quindi c'è anche una pacificazione linguistica che volevo chiarire. E l'ultima cosa, che noi abbiamo temuto molto la dissociazione in Italia, perché io penso che in tutti i momenti movimenti rivoluzionari i traditori e le spie e i delatori ci siano sempre stati, anche durante la rivoluzione bolscevica ogni tanto qualcuno tradiva, c'erano anche gli infiltrati. Vittor Serge ci ha detto che quando hanno aperto gli archivi della polizia segreta zarista c'erano molti membri del comitato centrale del partito bolscevico che erano poliziotti, ma questo non ha impedito la rivoluzione sostanzialmente. Allora noi abbiamo temuto la dissociazione, perché la dissociazione poteva diventare il pentito non piace a nessuno, neanche i carabinieri, il delatore chiamato pentito, il traditore, non piace neanche i carabinieri, una figura che non, poco morale, deve vivere nelle caserme, poi in genere distrugge se stesso psicologicamente, e questo fa bene, così si toglie di torno. Ma invece la dissociazione può essere un progetto politico. Molti si possono mettere insieme e presentarsi come una componente della società, è sguerrigliera, che si è dissociata e che quindi diventa coccolata dalla borghesia e quindi semina veleni, falsifica la storia e ottiene vantaggi. Ecco, volevo precisare questo, perché ci sono differenze interpretative. Basta. Luce. Sì, mi fermo qua, sono andato troppo lungo. Va bene. Pippo, volevamo iniziare il dibattito con il primo intervento di Pippo, che ovviamente, come dicevo prima, quella fase l'ha attraversata nel suo mestiere e le caratteristiche e le difficoltà delle fasi diverse le ha vissute. Innanzitutto devo dire che il lavoro fatto dall'archivio mi sembra davvero eccellente, e niente, visto la vastità del materiale, la vastità delle riflessioni che sono fatte, mi sento un po' a disagio e piccolo, inutile in un certo senso. Però alcune cose le dirò lo stesso, sia sulla base delle mie esperienze, sia sulla base delle mie riflessioni. E allora, partendo dal contesto nel quale si va poi ad arrivare al pentimento e dissociazione, io intravedo che c'è a prescindere dagli accadimenti specifici e particolari, un disegno da parte dello Stato, un disegno da parte dello Stato che nasce grosso modo dalla metà degli anni 70, quando cioè c'è stata l'onda lunga del 68, che poi dopo dà corpo ai vari movimenti di massa, anche illegali, armati, e alle organizzazioni combattenti. Lo Stato si pone ovviamente un problema già in precedenza di ritornare all'interno delle sue compatibilità. Ritornare all'interno delle sue compatibilità, e per questo inizia a produrre una legislazione che viene definita dell'emergenza, e che vedremo poi che in realtà non ha nulla di emergenziale, perché connoterà tutta la produzione legislativa successiva, e che è antecedente al compimento di fatti di sangue vistosi da parte delle organizzazioni armate. Solo dei rapidi riferimenti: abbiamo la legge Bartolomei del 74 sulle armi, la legge sulle armi che introduce l'articolo 21, cioè introduce già i primi germi della questione della individualizzazione del processo penale, nel senso che il fatto conta meno, quello che conta è la finalità, è la tensione del soggetto, con l'articolo 21, cioè la detenzione delle armi con finalità di terrorismo o di eversione. Abbiamo la ben nota legge Reale, anche questa del 75. Con lo sviluppo poi della lotta armata e dei movimenti illegali di massa, il movimento del 77, il convegno di Bologna e così via, e a quel punto si crea un problema da parte dello Stato di accentuare quella che è sempre stata la connotazione della legislazione penale, di essere funzionale agli interessi di classe, però con un mutamento significativo rispetto a quello che era il quadro precedente. Il quadro precedente, secondo me, era un quadro in cui la lotta di classe, le lotte, avvenivano in un contesto dato di legalità e illegalità. Con questo periodo, con il 79, con il primo decreto Cossiga, in realtà si assiste a un capovolgimento, nel senso che la legalità viene subordinata alle esigenze della compatibilità e ai rapporti di forza e alla natura del conflitto. Viene completamente rimodellata la penalità e viene incentrata appunto sugli aspetti della individualità dei soggetti. L'articolo 4 del decreto Cossiga è appunto la prima introduzione della figura del collaboratore di giustizia. E il decreto Cossiga esalta il momento della iperpenalizzazione delle condotte determinate da una finalità, con l'articolo 1 l'aggravante della finalità del terrorismo, con la quale ci troviamo a fare i conti, e qualcuno qui in questa sala lo sa bene, anche per fatti che nulla hanno a che vedere col terrorismo e fatti recenti degli anni 2013 e seguenti. E quindi arriviamo attraverso a questo meccanismo a un processo che è sia legislativo, ma che secondo me è anche culturale. È anche culturale perché, ad esempio, prima si è parlato, visto nel problema del lavoro, che si fa riferimento all'occupazione, ai 37 giorni dell'occupazione della Fiat, alla marcia dei 40.000. Ecco, se non ho sbagliato, non ho visto il riferimento al licenziamento dei 61. Sì, certo. C'è? Non era forse nell'elenco allora. Perché secondo me è importante anche questo, il licenziamento dei 61 alla Fiat è importante anche per una cosa che potrebbe apparire una quisquiglia, ma che non lo è sul piano della battaglia ideologica. Il sindacato si rifiuta di difendere quei lavoratori licenziati che non firmano uno specifico mandato, una specifica delega all'avvocato, che normalmente viene fatta, delega a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, l'avvocato tal dei tali, punto e stop, vera e autentica la firma, scrive l'avvocato. Lì si scrive in quel mandato che ripudia la violenza. E questo, ci sono alcuni, una decina, una dozzina di licenziati che non accettano, e si crea quindi un collegio alternativo. Però lì abbiamo un primo segno di una battaglia culturale per arrivare a questa creazione di una divaricazione fra chi mantiene una quantità di antagonismo e di volontà di lotta a prescindere da ciò che è legale e ciò che è illegale, a chi invece accetta di inserirsi nel sistema delle compatibilità. Il sistema delle compatibilità è poi accentuato e esaltato con la legge sui pentiti. Adesso, dopo quello che diceva Primo, che ha fatto grande piacere rivederlo, è vero, è la figura, vecchia figura dell'attore, del traditore, del collaboratore, e ha però nel contesto di quei processi una sua connotazione particolare, proprio in quel senso di ribaltamento delle vecchie legalità, perché ha un legame con delle prassi che non avevano mai avuto ingresso nel nostro ordinamento processuale, che ad esempio, per farne una, la detenzione nelle caserme, che assolutamente non era prevista, anzi era previsto che non si potesse detenere alcuno nelle caserme, nella prima stesura del decreto Cossiga del dicembre 79 era previsto per i soli militari che si rendessero colpevoli di qualche reato con nulla a che fare col terrorismo, ovviamente, la detenzione nelle caserme. Nella legge di conversione del gennaio dell'80 viene abolito anche questo, quindi proprio la detenzione nelle caserme, non c'è, perché vengono mandate nel carcere militare. E nella detenzione nelle caserme è lì molto spesso che si crea la figura del pentito, del delatore, del traditore, perché anche a fianco di questo, soprattutto in una fase successiva, perché i pentiti che hanno determinato centinaia di arresti non sono solo quelli dell'80, arriviamo anche a quelli dell'82, ad esempio a Michele Galli per la Walter Alasia qui a Milano, a Piero Mutti per quanto riguarda Prima Linea, e a Savasta per quanto riguarda la colonna romana e gli partecipi del rapimento d'Osia. E lì si lega questo fatto della tortura. La tortura che si lega alla costruzione del pentito, che ovviamente una volta che è pentito e che fa delle dichiarazioni di accusa perché le ha fatte sotto tortura, è ben difficile che si tiri indietro, anche perché oramai è vincolato a questo. E poi perché, come prima si diceva, dentro le carceri c'è molta tensione su questo punto e ci saranno anche dei fatti preoccupanti, a mio giudizio. Poi nessuno giudica nessuno, io sono l'ultimo che può giudicare su fatti avvenuti in casa, che comunque sono fatti, a mio giudizio, criticabili, cioè l'uccisione di chi aveva fatto delle ammissioni, anche delle accuse sotto tortura, e che poi magari si è andato a confidare dicendo: guardate che io ho fatto questo con i compagni, e cercando, è il caso di soldati, cercando di avere un reinserimento, e invece non c'è stato su questo nulla. E abbiamo poi delle prassi processuali che si legano al meccanismo della tortura, che sono incredibili. La vicenda di Michele Galli, ad esempio, nella Walter Alasia, che portato incredibilmente a Roma da Firenze, dove l'avevano arrestato, invece che portarlo a Milano perché era sotto indagine a Milano, a Roma nella caserma di Castro Pretorio, se ricordo giusto, il solito trattamento, finta esecuzione, acqua e sale da ingurgitare e così via. E questo rende le prime dichiarazioni accusatorie, in base alle quali fanno i primi arresti. Poi però lui non le convalida con un interrogatorio davanti a un giudice. Lui non vuole più collaborare, e qui gli inquirenti hanno già fatto gli arresti, hanno un'estrema esigenza che lui li confermi. Solo dopo una ventina di giorni, senza che mai il suo avvocato difensore, che è una bellissima figura che tutti quanti abbiamo conosciuto, non è stato mai informato neppure dell'arresto. Poi Galli confermerà, e a quel punto salva le decine e decine di arresti che sono stati fatti. Poi però Michele Galli ha un altro ripensamento e non vuole più confermare. Allora a questo punto che cosa succede? Perché le sottigliezze che mantengono la figura del pentito all'interno della sua nuova identità sono terribili. Viene deciso, su sollecitazione dei magistrati milanesi, il suo trasferimento a Sassari. Lui arriva col blindato a Sassari e viene mandato nella camera di sicurezza della nave. A Sassari arriva un altro blindato proveniente da Cuneo, e l'altro detenuto viene portato nella camera di sicurezza. Questo richiama la scorta perché dice che lui non si presta a questi sporchi giochi. Lui era accusato dell'omicidio soldati e avrebbe fatto fare la traversata a Michele Galli con uno che era accusato di aver ucciso un collaboratore. Ovviamente questo se ne torna a Cuneo perché non si presta a questa operazione, sul piano umano, politico, non lo so. Michele Galli viene ritrasferito a Varese e riprenderà poi a collaborare. Quindi dentro questa figura c'è una veramente anche parecchio marcio, cose brutte e terribili. Fra l'altro, giustamente prima sia Gino che Tommaso facevano notare che pentimento, la figura della collaborazione, pentimento, tradimento e dissociazione sono antecedenti alle leggi che poi le vengono a disciplinare. E questo è vero, È vero addirittura sia la legge 82 dell'82 sul pentimento, che poi la legge sulla dissociazione, prevedono che si applichino, ad esempio quella dell'82 è del maggio 82, le disposizioni si applicano solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 82. Quindi non ha una proiezione verso il futuro, ottenere nuove collaborazioni, ma è il pagamento di una cambiale che lo Stato aveva assunto nei confronti dei grandi collaboratori di giustizia. E lo stesso è per la legge sulla dissociazione. La legge sulla dissociazione, che è dell'87, ha valore per chi mantiene le condotte in relazione a fatti commessi fino al 31 gennaio 87 in quel caso. Le disposizioni o la cui permanenza è cessata il 31 gennaio 87. Anzi, ancora prima. O la cui permanenza è cessata entro il 31 dicembre 83. Quindi sono proprio riferite alle aree omogenee. Non lo so se ci fu una proroga o meno, poi può essere che hanno fatto, ma originariamente nel febbraio 87 loro si cristallizzano le condotte tenute dai detenuti delle aree omogenee che erano detenuti per fatti anteriori al gennaio 83. Allora, questo procedure eccezionali, che nulla di eccezionale hanno, si affiancano al trattamento carcerario, al trattamento carcerario che è tutto anche questo calibrato sulle identità per come sono definite poi dai giudici, perché negli atti di quei processi si vedono i fonogrammi che arrivano dal DAP, dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, rivolto ai PM, ai giudici istruttori, pregasi comunicare se Tizio Caio est pentito, autodissociato, aut irriducibile, e chi si difendeva viene definito irriducibile e finisce nel circuito delle carceri speciali. Per cui siamo veramente sul piano processuale ai paradossi, nel senso che la legge sui pentiti prevede la non punibilità in ordine ai reati associativi e ai reati concernenti le armi a chi li confessa, e quindi nei loro confronti c'è la non punibilità quando hai il massimo della prova, sotto sommato, l'ammissione. E chi invece vuole difendersi viene catalogato come irriducibile e immesso nel circuito carcerario speciale. E c'è uno stravolgimento proprio della natura del processo. Adesso non sto a farla lunga, ma si può dire che nel dibattimento a questo punto trionfa l'aspetto del controllo della capacità dell'imputato di riallinearsi ai valori dominanti. La terzietà del giudice, ammesso che sia mai esistita, non esiste assolutamente più. Il collegio giudicante ha lo scopo preminente di esercitare una pressione politico-giudiziaria attraverso la minaccia di pene differenziate contro l'imputato, perché prenda atto dei suoi errori, ribadisca una volta di più che lui imputato aveva torto e ragione allo Stato. Il diritto di negare l'addebito è visto come un segno di particolare pervicacia e di pericolosità sociale e viene duramente punito. E quindi abbiamo veramente un passaggio che pone in non essere anche le tradizioni culturali liberali, perché qualunque storico anche di matrice liberale ti dirà che la violenza fa parte della lotta politica nella storia, ne ha sempre stato fatto parte e ne farà tuttora parte, e la legge sulla dissociazione prevede come comportamento o come condotta tipica, adesso la cerco, eccola qua, il terzo tipo di condotta che viene richiesto per essere oggettivamente e unicamente incompatibile con il permanere del vincolo associativo, deve essere il ripudio della violenza come metodo di lotta politica. E c'è quindi questo passaggio al processo alla psiche, al processo sull'identità profonda dell'individuo, che in realtà poi però è anche una esaltazione dell'opportunismo. L'esaltazione dell'opportunismo è una entrata dentro il processo e dentro la lotta politica, secondo me, del valore della merce. Perché anche i moti dell'anima, quali dovrebbero essere il pentimento, Primo diceva il dissociato è quello che si pente e così via. Il dissociato non è quello che si pente, è quello che scambia. È quello che scambia la sua merce, ripudio della violenza politica, per avere un beneficio. Io sono al corrente di persone che hanno avuto un percorso di riflessione profonda sulle proprie condotte. C'è chi ha mantenuto rapporti con parenti stretti di persona che lui era stato accusato e condannato di aver ucciso, ma non ha mai venduto questo suo rapporto per avere una riduzione di pena. C'è chi, essendo tuttora in carcere, ha avuto contatti col cardinal Martini, ma non per fargli ritrovare armi o che so io, o per poi dire al giudice guardate che, no, è tuttora dopo 30 anni in carcere. E quindi secondo me questo aspetto sul piano proprio della riflessione è che c'è stato all'interno di un meccanismo di desolidarizzazione, di individualizzazione e così via, di ridurre tutto quanto a merce. Ora, gli esiti e le ricadute di questa cosa, della mercificazione del proprio io, della propria riflessione profonda, lo si ha anche oggi, ad esempio, nei tribunali di sorveglianza, nella materia della liberazione condizionale, che è sempre stata legata a condotte oggettive dalle quali si poteva desumere il ravvedimento. Oggi nei vari tribunali di sorveglianza richiedono invece delle condotte opportunistiche che molto spesso i condannati si rifiutano di tenere, proprio per non rifiutando questo strumentalismo. Devi scrivere la letterina al parente della vittima, devi accettare attraverso la mediazione, perché si è creato l'istituto della mediazione, che se ha un senso magari nel tribunale minorile, per mettere a contatto il ragazzino che ha fatto la cazzata con quell'altro che è stato vittima della cazzata. Non ha senso la mediazione in questo caso, che serve a mettere in contatto a confrontarsi, rendendo tutto uguale, fra l'altro, mentre invece storicamente sono cose diverse, perché io, pur avendo pietà per le vittime di quegli anni e magari critica nei confronti di chi ne ha fatto delle vittime, non puoi metterli sullo stesso piatto della bilancia, perché c'era chi era rappresentativo di una certa situazione economica, politica e sociale, e c'era chi si muoveva magari sbagliando per dare l'assalto al cielo e per ricostruire una società di giusti. Tu in questo modo invece rendi tutto uguale, e questo non va, a mio giudizio, affatto bene, ma è nel senso appunto del pensiero unico. Cioè, al di fuori del pensiero unico che ha vinto, adesso oramai siamo al pensiero unico del mercato dopo l'89, non c'è più diritto all'esistenza. Sei un emarginato, sei un deviante, e lì devi stare, non puoi partecipare, e le compatibilità sono così ricostruite, e ne fanno di tutti i colori all'interno delle compatibilità, fino alle distruzione del welfare, alla distruzione del diritto del lavoro, e anche a un ingresso dentro il processo penale dopo la riforma dell'89 di tutti i meccanismi della premialità che ci sono dentro istituti come ad esempio il patteggiamento. Dove sta la premialità? Io ti premio perché tu ti fai carico delle esigenze dello Stato di fare un processo veloce, e per giunta siamo al paradosso: tu chiedi di essere condannato a quella pena. È la fine di un vecchio rapporto fra imputato e giudice e tribunale, in cui anche il ruolo dell'avvocato, che era quello di sottrarre l'imputato alla pretesa punitiva dello Stato, viene assolutamente a scomparire. L'avvocato l'avvocato è un mediatore, è un sensale, dice ma sì, dammi questa attenuante e facciamo 2 anni e 6 mesi, ma no, facciamo 2 anni e 4, ma vabbè, troviamo un accordo 2 anni e 5. Io non ho mai fatto un patteggiamento, quindi non lo so bene come funziona, però li ho visti fare qualche volta dentro le aule di giustizia e sono veramente, mi sembrano un po' il mercato del bestiame. E così anche nel rito abbreviato, il discorso è più complicato, però anche lì c'è un certo senso una strizzatina d'occhio nel riconoscimento al pubblico ministero della validità delle sue indagini. Ma questo discorso comunque del rito abbreviato si lega poi a quello che accennava Gino prima, al mutamento della situazione per quanto riguarda il processo politico. Però di questo non se ne può, a mio giudizio, fare una colpa anche agli imputati. Non fanno il processo di rottura, ma e perché mai dovrebbero fare un processo di rottura non essendo supportati da un movimento che dia un senso a questo processo di rottura? È chiaro che a quel punto lì diventa importante mantenere comunque la propria dignità e poi anche cercare di giostrarsi all'interno di questi nuovi schemi, schemi giuridici che sono gli esiti di questo percorso. Io penso di avere più o meno finito le riflessioni.